Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. In questa puntata parleremo di animali da salvare dall'estinzione, quali risposte al cambiamento climatico, consumi sostenibili e bioviolenti, del nuovo libro di Safran Foer e di sentenze molto discutibili. La musica scelta da Giuseppe Coco e il piatto non violento del giorno di Gabriele Palloni completeranno il quadro. Una volta c'era il panda. Il panda per decenni è stato il simbolo di politiche e di battaglie per la difesa degli animali selvatici e della biodiversità, sempre più minacciata dallo sviluppo dell'industria moderna e dal cambiamento climatico. Ma cambiano i tempi e cambiano i simboli. National Geographic Italia ha infatti lanciato un sondaggio ai propri lettori chiedendo: se poteste dedicare la vostra vita alla salvezza di una specie, quale scegliereste? La maggioranza delle risposte è stata per certi versi sorprendenti: le api. Questi insetti infatti vincono per distacco il sondaggio davanti ad animali ben più carismatici come gli elefanti, le tigri, le balene e gli orsi polari, piazzatesi rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto posto. Votando per le api, i lettori hanno sottolineato quanto questi insetti siano importanti per gli ecosistemi e i loro abitanti. Tre quarti delle piante da fiore e circa un terzo dei raccolti dipendono da insetti impollinatori come le api. Naturalmente questo sondaggio non è rappresentativo di tutta la popolazione italiana, ma è comunque indicativo del cambio di passo sulla percezione e consapevolezza dei temi ecologisti e ambientalisti. Ciò che sembra non cambiare è la prospettiva antropocentrica. Le api sono infatti fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi. Se poi sono esseri viventi che meritano di vivere in quanto tali, poco sembra importare. A proposito di clima e cambiamenti climatici, uno dei modi per salvare il mondo dall'emergenza climatica è vivere comportandosi e consumando come i nostri nonni o bisnonni. A dirlo è Jonathan Safran Foer, autore di romanzi come Ogni cosa illuminata e del saggio Se niente importa contro il consumo smodato di carne. Agli eccessi che mettono a rischio la distruzione del mondo, lo scrittore dedica il suo prossimo libro, Possiamo salvare il mondo prima di cena. In libreria ad agosto per Guanda Edizioni. Capiamo meglio di che si tratta con il servizio di Lorenzo Guadagnucci. Jonathan Safran Foer è un romanziere affermato, ma una decina di anni fa attirò grande attenzione per un suo saggio, titolato in Italia Se niente importa. Era un reportage sull'etica dell'alimentazione. Nella sua inchiesta, Föhr scoprì e documentò ciò che da molto tempo in realtà sappiamo: l'inferno degli allevamenti, l'orrore dei mattatoi. In una parola, per dirla con un altro scrittore, Isaac Bashevis Singer, il fatto che per gli animali la vita è un'eterna Treblinka. In Se niente importa, Föhr si poneva un problema morale, oltre che salutistico, e riconosceva il valore, se non la necessità, della scelta etica in favore degli animali e quindi anche di una alimentazione personale senza violenza. In realtà lo scrittore non portò fino in fondo le sue stesse conclusioni, forse per la sua inclinazione moderata, forse per la necessità di non scontentare il suo vasto pubblico di lettori con affermazioni che qualcuno potrebbe giudicare troppo radicali. E quindi l'individuo, Jonathan Safran Foer, ha sì cambiato alimentazione, ma optando per un blando vegetarismo con deroghe, lontano perciò dall'opzione vegana e non violenta. Oggi Jonathan Safran Foer torna a far parlare di sé per un nuovo saggio, che avrà un titolo molto lungo: Possiamo salvare il mondo prima di cena, perché il clima siamo noi. Il tema è dunque l'emergenza climatica, e anche stavolta Föhr indaga la questione a partire da se stesso e indicando le piccole azioni che ciascuno può fare per contrastare o almeno rallentare il disastro annunciato dagli scienziati. Föhr ha parlato del nuovo libro in una lunga intervista alla Lettura, l'inserto settimanale del Corriere della Sera. Sono quattro, spiega lo scrittore, le azioni possibili: non avere molti figli, volare il meno possibile in aereo, ridurre l'uso dell'auto, mangiare pochi prodotti animali. Niente di nuovo sotto il sole, evidentemente, ma personaggi influenti come Safran Foer, seguito da molti lettori in tutto il mondo, possono certamente ispirare la vita e le scelte di molti di noi. C'è da chiedersi semmai se ancora una volta, e ancor più di quanto avvenuto con Se niente importa, Foer non sia troppo rinunciatario, restio a sviluppare completamente le sue stesse affermazioni. Lo scrittore si sofferma su un elemento psicologico che sembra orientare molti di noi, una sorta di incapacità di credere a ciò che in realtà sappiamo, ossia lo scenario disastroso che si profila anche con il semplice innalzamento di 2 gradi della temperatura globale, innalzamento che sembra ormai inevitabile. È un problema senza precedenti nella storia umana, dice giustamente Föhr nell'intervista, e richiederebbe una comunicazione senza precedenti. Dall'altro lato, del resto, Föhr mostra sfiducia nell'intervento della politica e dei governi, anche di futuri governi, confidando piuttosto nella sommatoria delle azioni dei singoli, con un ottimismo che francamente rasenta l'incoscienza e rischia di sfociare nella rassegnazione. Che ridurre un po' i voli aerei o l'uso delle automobili, mangiare un po' meno carne, senza decisioni collettive di conversione dell'economia attuale, sia sufficiente ad affrontare l'emergenza climatica, sembra più un'illusione che una via d'uscita. Per salvare il pianeta avremmo in realtà bisogno di decisioni politiche forti, nazionali e sovranazionali, in grado di ridurre drasticamente la produzione di merci inutili e i consumi di idrocarburi, di limitare fortemente il traffico aereo e quello automobilistico con una nuova organizzazione dei trasporti e della mobilità pubblica. Servirebbero anche decisioni pubbliche sull'alimentazione, avviando una conversione su larga scala della distruttiva filiera della carne. Insomma, leggeremo il libro di Jonathan Safran Foer, ma tenendo a mente che la dimensione intimista e individuale della sua proposta è solo un aspetto, e forse nemmeno il più importante, della questione politica più pressante del nostro tempo. Cair no seu belo reflexo. La risposta ai cambiamenti climatici sembra dunque convergere sempre di più verso la riduzione dei consumi di carne, carne che deve essere però di qualità e sostenibile, ritornando a un'agricoltura dei tempi passati. Ne è testimonianza l'enorme promozione di prodotti di origine animale che garantiscono il rispetto delle norme sul benessere animale. Basti pensare alle martellanti campagne pubblicitarie di Coop, Conad, giusto per citare un esempio. E soprattutto le varie feste di paese in cui si celebra la vita contadina legata agli animali da cortile. Non ultima l'iniziativa che si è tenuta dal 28 maggio al 2 giugno a Vercelli, la fattoria in città, dove la cittadina si è trasformata in una grande fattoria di campagna che, secondo gli organizzatori, avrebbe dato l'opportunità ai bambini di ammirare animali da cortile, da dove arriva per esempio il latte che ogni giorno bevono a colazione o la provenienza delle uova che consumano a cena. L'associazione parte in causa a questo proposito ha redatto un interessante approfondimento che vi invitiamo a leggere e di cui vi riportiamo un breve stralcio. Ci troviamo di fronte alla massima espressione di una visione antropocentrica, specista e intrinsecamente violenta, spacciata come educativa per i bambini, che tenta di edulcorare lo sfruttamento sistematico operato negli allevamenti dei cosiddetti animali da reddito, ma non solo, la cui tappa finale è il mattatoio. Si tratta di una visione dell'animale macchina oggi ampiamente superata in termini filosofici e scientifici, ma ancora regina in economia per gli interessi ad essa collegati. Essa fornisce il lasciapassare morale al consumo e al consumismo, alla riduzione in schiavitù e al perpetuarsi di un capitalismo sfrenato che non da ultimo ha distrutto il pianeta. Per leggere tutto l'articolo, associazioneparteincausa.wordpress.com. I'll become. Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run, run for my soul. I better go, go, go, go, go, go, making sure I. La scorsa puntata vi abbiamo parlato di un ristorante americano in Idaho che ha completamente stravolto il suo menù diventando 100% vegan, in seguito alla visione del docufilm Dominion da parte del proprietario. Oggi, a riprova di quanto raccontato durante questa puntata, vi parliamo di un pub italiano che ha puntato tutto sul biologico e sull'eticoerenza. Di che cosa si tratta? Un calderone di etica, appunto coerenza, sostenibilità e benessere animale, che ormai sono le parole d'ordine su cui le aziende fanno leva per continuare ad assicurarsi gli acquisti da parte dei propri consumatori. Un trend che naturalmente viene seguito anche dai ristoratori. Al Murphy's Law, questo pub campano, da 27 maggio il menù è stato completamente rivoluzionato. Bandito l'utilizzo di carni animali da allevamenti intensivi, che danneggiano l'ambiente e il clima, aumentate le proposte vegetariane, sostituite le salse in bustina con quelle homemade, inoltre la plastica è stata abolita sia in sala che in cucina, dove si usa pellicola in cera d'api, ecologica e riutilizzabile. Per dare più valore a questo progetto arriva anche l'impegno benefico, la donazione mensile a CWF Italia, è un'organizzazione internazionale per il benessere animale da allevamento. Un nuovo modo, insomma, di fare impresa, di cui beneficeranno tutti, gli imprenditori, i consumatori, la società e l'ambiente. Peccato però che a non beneficiarne saranno proprio gli animali, che comunque, magari con meno sofferenza, continueranno a finire nei piatti. Per Completare il quadro delle possibili soluzioni al cambiamento climatico e al problema di come alimentarsi nel futuro è arrivata anche la Fattoria Galleggiante, presentato come progetto rivoluzionario concepito dall'Istituto Agroalimentare Olandese Courage e dalla società leader nella costruzione di edifici galleggianti, la Floating Farm, a 2 anni dalla presentazione del progetto, è stata inaugurata pochi giorni fa a Rotterdam. Apprendiamo dal sito gamberorosso.it e le prime 32 mucche sono salite sulla piattaforma. Un allevamento a tutti gli effetti, autosufficiente dal punto di vista energetico, altamente robotizzato e sostenibile. Nato con lo scopo di produrre latte, yogurt, burro, formaggi, con tanto di fattoria aperta 7 giorni su 7 e visitabile da scolaresche, cittadini e turisti. Soddisfatti gli olandesi che ora potranno vantare una produzione locale sostenibile e davvero a chilometro zero. Un microcosmo che riassume tutto quello che riguarda lo sfruttamento animale moderno: allevamento, produzione, riproduzione forzata, separazione dei figli, benessere animale, didattica, spettacolo, comfort per gli umani, suggestione iconica e tecnologia sofisticata. Il finale, però, sarà sempre un mattatoio. I wake up and it's raining and it's much too late. I'm E visto che vi diamo sempre aggiornamenti dal mondo del selvatico e dei cosiddetti animali nocivi, non arrivano buone notizie dalla regione Lazio, dove è pronto per la firma il piano triennale per la riduzione dei cinghiali. Un protocollo d'intesa fra Regione Lazio, Federparchi, Legambiente Lazio e Coldiretti, che prevede lo stanziamento di 300.000 fondi pubblici per mettere in pratica le attività previste dall'intesa, che prevederebbero la semplificazione e la velocizzazione dell'iter autorizzativo per i piani di controllo numerico della fauna selvatica nelle aree protette regionali. Il piano, dichiara la LAV, la Lega Antivivisezione, aumenta il numero di cinghiali che sarà possibile uccidere su tutto il territorio regionale e prevede l'istituzione di una sorta di filiera per la valorizzazione economica dei corpi degli animali uccisi, che coinvolge anche gli agricoltori. Esperimento simile a quanto già realizzato in Toscana e Emilia-Romagna, dove sono miseramente falliti. Sempre secondo l'AV, è dal 2005 che i cinghiali possono essere cacciati tutto l'anno, ma i danni a loro imputati non accennano a diminuire, anzi sono in continua crescita. Evidentemente il sistema venatorio non è solo inefficace, ma addirittura contribuisce ad accrescere le popolazioni di animali. Basterebbe investire 100.000 euro, dichiara Massimo Vitturi, responsabile degli animali selvatici LAV, ovvero un terzo della cifra stanziata per il piano di abbattimenti, per uno studio di 5 anni sulla sterilizzazione chimica dei cinghiali. Il farmaco esiste, continua Vitturi, bisogna solo capire come somministrarlo per via orale anziché iniettarlo e su quale percentuale della popolazione perché sia efficace. La National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si occupa di oceani, meteorologia e clima, ha aperto un'inchiesta dopo che sulla costa del Pacifico, tra la California, l'Oregon, lo stato di Washington e l'Alaska, sono state ritrovate già una settantina di balene grigie spiaggiate dall'inizio dell'anno. Si tratterebbe di un tasso di mortalità insolito che non ha precedenti dal 2000, anno in cui si registrò una moria anomala di questi mammiferi. Con l'avvicinarsi dell'estate, le balene migrano dalle acque del Messico, nuotando per quasi 20.000 km verso l'Artico alla ricerca di cibo. Ma il cambiamento climatico e gli sbalzi di temperatura hanno probabilmente alterato gli ecosistemi marini, da cui dipende la catena alimentare di questa specie, compromettendo così le riserve di fitoplancton e krill, i piccoli crostacei a forma di gambero di cui si nutrono questi giganteschi mammiferi. Alcune balene, evidentemente affamate, sono entrate anche nella baia di San Francisco, finendo travolte dalle navi. Per evitare ulteriori collisioni, molte compagnie di navigazione hanno così deciso di rallentare la velocità delle loro imbarcazioni nell'area. Nel 1985 esce Victoria Land, il quarto album in studio del gruppo The Cocteau Twins. Il titolo si riferisce a una particolare regione situata in Antartide, conosciuta appunto come Victoria Land, di dominio britannico sin dall'epoca vittoriana. Le canzoni tutte dal tema polare e anche un po' animalista. Tra queste vi propongo Whale's Tales, ovvero Code di Balena. Gentile, un frigorifero senza crudeltà. We are the weather. Saving the planet begins at breakfast. Questo è il titolo del prossimo libro di Jonathan Safran Foer. Quindi, prendendo spunto proprio da questo, dedichiamo all'autore la ricetta dei bagels, golosissime e fragranti ciambelline di pane immancabili in un American breakfast. Gli ingredienti per circa 6 bagels sono 460 g di farina forte, W350, 270 g di acqua, 12 g di lievito di birra, un cucchiaio di malto di orzo, 8 g di sale, semi di sesamo e di papavero, semola di grano duro per spolverare il piano di lavoro. Fate un lievitino mescolando 130 g di farina con 130 di acqua fresca e 3 g di lievito di birra. Lavorate bene, quindi coprite con della pellicola e fate riposare per circa 8 ore. Se la temperatura esterna è mite sono sufficienti anche 6 ore. A questo punto mescolate 330 g di farina con 140 g di acqua, altri 9 g di lievito, mezzo cucchiaino di malto di orzo e 8 g di sale. Fate attenzione a mettere il sale dalla parte opposta del lievito. Ed infine aggiungete il lievitino. Impastate il tutto e fate lavorare con il gancio della planetaria a velocità media per 5 minuti. Se invece impastate a mano, lavorate energicamente per 10 minuti. Disponete l'impasto in un contenitore e coprite con la pellicola. Fate riposare 2 ore a temperatura ambiente e successivamente 4 ore in frigorifero. Adesso riprendete la pasta e lavoratela con le mani ottenendo un cilindro di circa 3 cm di diametro. Arrotolatene un pezzo attorno alla mano e staccatelo. Quindi arrotolate facendo una leggera pressione sulla spianatoia per chiudere il bagel. In pratica dovete realizzare delle ciambelle con l'impasto, che adagerete su di un piano spolverato con della semola di grano duro e lascerete riposare ancora per mezz'ora. Trascorso il tempo necessario, immergete i bagels in acqua bollente, nella quale avrete aggiunto un cucchiaio di malto di orzo. Se avete fatto un buon impasto, i bagels galleggeranno. Lasciateli cuocere 30 secondi per ogni parte. Quindi scolateli e immergeteli in acqua ghiacciata. Portate il forno a 250 gradi, quindi scolate i bagels dall'acqua e copriteli con i semi di sesamo, di papavero o altri semi e un po' di sale. Infornate a testa in giù, con i semi verso il basso, per 4 minuti. Quindi capovolgeteli e fate cuocere sempre a 250 gradi per 12-14 minuti. Fate attenzione a non ustionarvi perché il forno è molto caldo. La superficie dovrà essere ben dorata. Toglieteli dal forno, lasciate intiepidire e farcite a piacere. Vogliamo segnalarvi una notizia che sicuramente lascerà tutti a bocca aperta. In molti si ricorderanno della triste scena del cane massacrato a colpi di bastone da due allevatori, padre e figlio, e lasciato morire tra terribili agonie. Un caso che aveva suscitato grande scalpore in Val Camonica, nel Bresciano, ma che aveva scosso anche il web. I due avevano ucciso il cane perché non rispondeva ai comandi. La barbara esecuzione fu documentata da un escursionista di passaggio. 19 terribili fotogrammi nei quali è stata fissata l'esecuzione, prima le bastonate al capo e sulla schiena per stordirlo, poi per finirlo la lapidazione. Nonostante ciò, il 30 maggio i due uomini sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Così si è chiuso il processo d'appello. Per loro l'accusa aveva chiesto 4 mesi, ma il giudice ha ritenuto credibile la tesi dei due uomini, che hanno sempre sostenuto di aver reagito per necessità. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're... E con questa triste ultima notizia purtroppo siamo giunti in chiusura. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia.